dall'1 e un quarto, che quando c'è stata la scossa fino adesso, insomma, sono stati in contatto con persone a Città del Messico oppure anche negli stati più a sud colpiti dal terremoto. Ci sono stati programmi, trasmissioni eccetera costanti su quello che succedeva, ma la grande apportazione sono state le reti sociali, tanto per l'organizzazione delle brigate che per ora sono in tutte le città, soprattutto Città del Messico, numerosissime, brigate cittadine organizzate spontaneamente o dall'università, per esempio dalla UNAM, l'Università Nazionale Autonoma del Messico, da altre organizzazioni, in parte anche dalla Protezione Civile e dalle autorità, anche per informare, per esempio, sui nomi delle persone sparite o che non localizzate, sui nomi invece delle persone morte. Il numero purtroppo è andato aumentando, come succede spesso in questi casi. La scossa è stata molto forte, è durata un minuto, a soli 120 chilometri dalla Città del Messico, però gli stati più danneggiati sono stati quello di Morelos, quindi lo stato della città di Cuernavaca, abbastanza conosciuta anche turistica, e Puebla, infatti proprio l'epicentro era sul confine tra questi due stati, però molto vicino a Città del Messico. Ricordiamo, la parte centrale di Città del Messico praticamente sta sopra un lago, quindi è il movimento molto più forte, tanto come percezione come danni che può causare, tant'è che appunto nell'85, proprio il 19 settembre, avvenne il terremoto più distruttivo, quello che fece 10.000 morti. Molto molto curiosa la coincidenza che proprio il 19 settembre avviene il sisma effettivamente più dannoso anche in termini di vittime dall'85 ad oggi nella capitale, no? Si era appena fatto una simulazione, un'esercitazione proprio per ricordare l'85. 2 ore dopo l'esercitazione, all'1 e un quarto, è successo il terremoto, crollati circa 50 palazzi a Città del Messico, alcuni alti, altri più piccoli, un supermercato intero. Per ora stanno seguendo molto le reti sociali, ma anche i mass media mainstream, diciamo, stanno seguendo molto il caso di una scuola nel sud della città, se non sbaglio la zona di Villa Coapa, dove sono rimasti sepolti 20 bambini, però appunto 20 morti e probabilmente 30 che stanno tirando fuori, stanno lottando in queste ore proprio per salvarli. E poi c'è il caso di un supermercato completamente raso al suolo, al metro Taschegna, nel sud della città. Però le zone più danneggiate, per chi conosce un po' Città del Messico, sono state la colonia del Valle, la colonia Roma, la Condesa e il centro storico, che sono zone molto molto frequentate, no? Quindi in questo senso le brigate che si stanno organizzando alla UNAM, all'università, ma anche in altre zone del centro eccetera, vanno a supportare i lavori dei soccorritori professionisti, diciamo così, o anche dell'esercito e della marina, che sono entrati ad occupare certe zone dove sono crollati edifici interi, ecco, lì hanno chiuso la circolazione per far passare i mezzi di soccorso e le macchine per iniziare a scavare eccetera. Tendo a sottolineare che c'è un gran movimento di solidarietà, durerà tutta la notte. Sono davvero davvero migliaia e migliaia le persone scese in piazza, anche qui a León e anche in tutte le altre zone del paese, sono a Monterrey per esempio, insomma in tutte le grandi città, sono fatte negli stadi dei centri di raccolta per beni di prima necessità, ma anche per guanti, per soccorritori, e a Città del Messico appunto Telmex, l'impresa telefonica nazionale, ha aperto le reti internet, le reti wifi in giro per la città, sono stati aperti degli hotel, degli alberghi per permettere almeno per le prime notti a tutti gli sfollati di dormire, perché c'è anche questo problema, oltre agli edifici crollati tanti altri sono danneggiati. Le scuole rimarranno chiuse per qualche giorno, le università, in 9 stati della Repubblica Messicana, tutto il centro del paese, però poi gli edifici privati, le imprese danneggiati, anche le case delle persone, ecco, ci devono essere delle verifiche, molti non si fidano ad entrare, c'è ancora lo shock, molta gente ha passato tutto il giorno fuori casa, questa era infatti la raccomandazione anche del Ministero degli Interni, no? Di stare fuori di casa, e molti si sono lanciati poi ad aiutare, c'era addirittura un eccesso di, chiamiamola così, di manodopera di soccorritori, che era positivo, però a un certo punto si è anche segnalato come non riuscivano a passare alcuni mezzi di soccorso, il traffico poi hanno detto che era completamente bloccato, l'aeroporto è stato chiuso tutto il pomeriggio, adesso è stato riaperto da poco, insomma la città domani continuerà a funzionare, ma continueranno i soccorsi e ci vorrà un po' per tornare alla normalità.